abbiamo notato che questa, che è una zona verde, è molto, con un'area molto pulita, diciamo, nel senso che anche dalle analisi che avevano fatto dell'aria si era visto che questa era una zona un pochino più, diciamo, con un'area più respirabile, e di conseguenza questo progetto, che in realtà vuole cancellare una biodiversità che è andata creandosi dall'abbandono di questa caserma, vuole creare, diciamo, delle colate di cemento, vuole costruire delle palazzine di 8 piani e lasciare poco spazio al verde, che noi riteniamo invece che sia una risorsa fondamentale per il benessere e la salute, anche come secondo me ha dimostrato anche questa pandemia, quanto sia importante tutelare anche il verde urbano. Si parla di 195 appartamenti, un centro commerciale più altre strutture che andrebbero a rimuovere più di 300 alberi che ci sono. Sì, gli alberi che ci sono adesso, un centinaio sono ad alto fusto, e quindi anche a un livello di ricambio di aria pulita, insomma, fanno un bel lavoro. Quindi il centro commerciale io penso che non ce ne sia la necessità, anche perché andiamo sempre più a schiacciare le piccole botteghe. Qui in zona io penso che di supermercati ce ne siano già abbastanza, quindi vogliamo essere solidali anche con chi invece riesce a diversificarsi un po' dalla massa dei supermercati, diciamo. Quindi anche per questa ragione ci terremmo a non avere un complesso magari che rimane poi invenduti. Gli appartamenti possono rimanere invenduti, dato che anche qua vicino via Parisio, che praticamente è di fianco alla caserma, ieri discutendo con delle persone nel corteo dicevano appunto che queste costruzioni nuove ancora sono invendute, quindi non ne vediamo neanche la necessità di tutti questi 195 appartamenti che sono stati calcolati appunto prima di anche dell'arrivo di questa pandemia. Quindi magari andrebbe anche rivisto questo passaggio, insomma, vedere se effettivamente è necessario avere questi numeri di abitazioni. Oltre alla passeggiata che avete fatto ieri, voi avete raccolto anche delle firme. Sì, abbiamo lanciato una petizione su change.org, perché i vari dialoghi che ci sono stati anche col comune non sono stati molto positivi, e per loro questa è una cosa che comunque si dovrà fare, mentre noi, insomma, vogliamo invece chiedere che venga pianificato un dialogo anche con i cittadini. Abbiamo fatto una richiesta anche alla Fondazione Innovazione Urbana, se magari può iniziare ad aprire un dialogo con noi, no? Per provare a vedere cosa realmente vogliono i cittadini di un territorio che è abbandonato e che non vediamo l'urgenza di veder trasformato in colate di cemento, ecco. Per arrivare a questo ovviamente bisogna fermare il progetto. Sì, assolutamente, anche perché noi speriamo che anche la passeggiata di ieri, che appunto ha rilanciato anche la futura assemblea che faremo il 10 di luglio, abbia fatto vedere che comunque una partecipazione c'è. Eravamo tutti residenti della zona, non era magari un corteo dove, insomma, dato che era accattivante fare una passeggiata c'erano persone, non è dato per scontato che la domenica mattina di giugno uno magari, insomma, visto anche la bellissima giornata che è stata, poteva anche andarsene al mare, mentre in realtà la tematica è a cuore anche di molti residenti della città, e sono convinta che il prossimo evento che faremo saremo ancora molti di più, perché piano piano c'è il passaparola che ci aiuta tanto, e quindi, insomma, qua nella zona già speriamo anche che in consiglio non venga approvato questo progetto.